Hathaway. Bene ragazzi, il singolo sindaco truffa che partizzo ogni giorno. Vivo delle cadri, sto se ci sta pelluciando. Ai ai ai ai, signor sindaco, ci hanno fregato il sindaco. Chiamatelo, non può corruzione. Presunto pagamento di mazzetta. Arrestato il sindaco, un assessore, il vicepresidente del consiglio ordinario e l'impresario di spettacoli. L'inchiesta ruota intorno ad una presunta tangente per restipulare l'attacco comunale per uno spettacolo musicale. E giunta infetta al bar Venezia una notizia shock. Ragguaglio deplorevole da rimanere di stucco. Il primo cittadino andato in ferie per un po' lo hanno scortato in un paesino da qui poco distante. Si mormora un complotto fra il prescelto, l'assessore e il vicepresidente del consiglio comunale. Lo cifrerà la bolla, hanno fregato al popolo. Denari e il gruzzoletto per la festa del patrono. Hanno arrestato il sindaco ai domicili a ristare. Da una villa al mare scontra la sua pena. Lo assolveranno al grande tempo e trusa fila. Si attendono i storni di così a nostra maestà. Ai ai ai ai, signor sindaco, che truffa, che fastidio. Faccio vivo e ride dritto se ci sta palliciando. Ai ai ai ai, signor sindaco, ci hanno fregato il sindaco. Chiamate lo sceriffo, qui c'è aria da far west. La relativa dell'impera è stata adottata per 31.500 euro, una somma che sarebbe superiore rispetto alle offerte di altre agenzie. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dalla giudice per le facilie preliminari. Malevolenze, accuse, maldicenze al faraone. Scusassi, signor sindaco, ma problema veramente urgente. Qui manca l'acqua, in piazza, un palazzo di città sembra il mercato della frutta. Un bar, un black bread. Fare back, back. C'è confusione, qui non si capisce più una linea, non si sa più a che credere. Colpevole o innocente, qualcuno prova la tua tua carica. Direi, ma i primi giù al trono sono alla tirare. Hanno arrestato il sindaco e il domiciliarista. Da una villa al mare scorta la sua pena. Lo assolveranno al grande hotel Petrusa Fila. Si attendono i soldi, i nostri e nostra maestà. Ai ai ai ai, sindaco è truffa, che pasticcio. Occio vivo e ride dritto se si scappa il luciatore. Ai ai ai ai, signor sindaco, ci hanno fregato il sindaco. Chiamate lo sceriffo.